liberation is well delineated. Il sentiero per la liberazione è ben delineato. We say that we have a choice between doing unskillful things or skillful things. Quindi si dice che noi abbiamo una scelta tra fare delle cose abili e non abili. But the more we do something unskillful, unwholesome, the more we suffer. Ma più facciamo delle cose non abili e non salutari, più soffriamo. So in a sense we don't have a choice. Quindi in un certo senso non abbiamo scelta. When we see the path, we simply have to follow it. Quando vediamo il sentiero, dobbiamo semplicemente seguirlo. So I hope my words have been of some use to you. Spero che le mie parole siano state di un certo utilità, di una certa utilità per voi. And I hope that you'll be liberated sooner rather than later. E mi auguro che voi siate liberati prima piuttosto che poi. So, if you find somewhere to do some walking meditation, quindi se trovate un posto dove fare la meditazione camminata, and maybe 5 to 8, and we'll commence meditation again at 8 o'clock for the last 2 hours.